sorriso. Comparivi dal vento in silenzio. Camminavi ridendo, poi chissà se cercavi proprio me, tu distante. Nei tuoi occhi liberi di sognare, vedi già l'alba di domani che questa notte già ti lascia toccare. Sai, mi somigli un po' a Sordale.